Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Questo è il Sunset Boulevard, il viale del tramonto Hollywood. Sono circa le 5 del mattino. Arriva la polizia, la squadra omicidi col solito codazzo di cronisti. In una di queste sfarzose ville è stato commesso un delitto. Lo leggerete sui giornali del mattino e ne sentirete parlare alla radio. Lo trasmetterà anche la televisione, perché questo è un fatto grosso. E nella faccenda c'è coinvolta una diva del cinema. Ma prima che gli altri vi raccontino questa storia deformandola, prima che i soliti gazzettieri alla caccia di scandali se ne impadroniscano, sono certo che vi piacerebbe sapere la verità, la pura verità. Se è così, sarete subito accontentati. Era il 1950 quando Billy Wilder firmava uno dei suoi capolavori, il cinico Viale del Tramonto, un film in grado di immortalare quel pericoloso miscuglio di disfacimento, morte e follia che sostanzia la vita dei divi hollywoodiani. Il lato oscuro del cinema coincide con quello della vita e il rutilante universo di Hollywood è capace di inghiottire qualunque cosa. La storia che stiamo per raccontarvi ha un finale amaro, una conclusione che si consuma 30 anni più tardi proprio in quello stesso Sunset Boulevard, il lungo viale dove tramontano i sogni di gloria sia degli aspiranti attori sia delle fortunate star che il successo lo hanno davvero conosciuto. Sunset Boulevard, una strada lastricata di promesse infrante. È qui che si frantumano anche quelle del nostro primo protagonista di oggi, John Belushi. John Belushi. The Chateau Marmont sits just above Sunset Boulevard in the Hollywood Hills. Lo Chateau Marmont sta proprio in cima a Sunset Boulevard, sulle colline di Hollywood. È un simbolo della città, uno dei posti preferiti per il soggiorno delle star qui a Los Angeles. John Belushi era tra i frequentatori più assidui dell'albergo e si trovava qui, al bungalow numero 3, dalla scorsa domenica. Era in città per lavorare al progetto di un film con la Paramount. Ed è proprio nella camera da letto del suo bungalow che Belushi è stato trovato senza vita. Oggi, poco dopo mezzogiorno. 5 marzo 1982, un assolato mattino californiano di quasi primavera. Dentro al bungalow numero 3 dello Chateau Marmont, il celeberrimo albergo in cui recentemente Sofia Coppola ha girato il suo Somewhere, non si muove una foglia. C'è un bicchiere di vino rosso appoggiato sul ripiano del bagno. Su uno sgabello è abbandonato un blocco di fogli scritti a macchina. A giudicare dalla distribuzione degli spazi sulla pagina, sembrerebbe proprio la bozza di una sceneggiatura. Accanto c'è il numero di aprile della rivista Playboy. A terra un paio di scarpe rosse da jogging. John Belushi giace inerte nell'enorme letto matrimoniale, a pancia in giù, le labbra violacee. La lingua a penzoloni. Solo nel tardo pomeriggio il coroner ha autorizzato lo spostamento del corpo di Belushi dal bungalow numero 3. L'autopsia è stata fissata per questo weekend e il rapporto del coroner sarà pronto per l'inizio della prossima settimana. Questa è Robin Groth per Nightline da Los Angeles. This is Robin Groth for Nightline in Los Angeles. Il rapporto medico è impietoso. La causa del decesso è insufficienza respiratoria dovuta a un cocktail mortale di sostanze stupefacenti. Ma come ha fatto John Belushi, uno degli attori comici più divertenti, talentuosi e acclamati d'America, a ridursi in quello stato a soli 33 anni? Quella di John Belushi è una vicenda che inizia lontano dall'assolata California dove si è tragicamente conclusa. È una storia che nasce ai bordi di un lago e non di un oceano, sferzata dal vento gelido e non dalla tiepida brezza della costa ovest. Una storia che nasce a Chicago. My sweet home, Chicago. Tutto comincia nella cittadina di Wheaton, nell'Illinois. È a 50 km ovest di Chicago e a 8.400 km ovest del minuscolo villaggio di Kitese in Albania. È proprio dai Balcani, infatti, che nel 1934 Adam Belushi, il padre di John, emigra in cerca di fortuna. Approdato negli Stati Uniti, il signor Belushi vive il suo personalissimo sogno americano, facendo carriera nel campo della ristorazione, da lavapiatti a direttore e infine a proprietario di un locale. Una vita dedicata a farsi strada nel mondo del lavoro. I ristoranti non hanno semplicemente riempito la sua vita, l'hanno di fatto annullata. Adam Belushi passa tutta la settimana a Chicago, in un minuscolo appartamento proprio sopra il suo ristorante, e torna a Wheaton il sabato, giusto in tempo per emanare decreti e impartire ordini per la settimana seguente. Tutto questo a John sta stretto già da ragazzo. La sua indole estroversa non riesce a fare i conti con le imposizioni paterne. Judy, la sua futura moglie, ci fa intravedere il lato naturalmente esuberante del carattere di John. Io facevo il terzo anno di liceo, John era l'ultimo anno. Insieme a un po' di amici uscimmo sul lago con delle barche. Facemmo una lotta sull'acqua e lui mi colpì con un remo. Si mostrò davvero preoccupato. La sera mi chiamò per sapere come stava il mio braccio. Stavo bene e fu una conversazione breve. La sera dopo mi chiamò di nuovo per chiedermi come va il braccio. Io ho riso e lui ha continuato a telefonarmi per giorni, sempre con la scusa di chiedermi come stesse il mio braccio. E alla fine mi ha invitato al ballo della scuola. Io ci sono andata e lui fu eletto re del ballo. John non è un secchione, non è certo il tipo da star chino sui libri, eppure è estremamente curioso e questa curiosità, questa scintilla nel suo sguardo, gli dona un fascino accattivante, così accattivante da catturarsi l'affetto incondizionato di compagni e professori. È anche un asso nello sport, come ricorda sempre Judy Belushi. All'inizio voleva giocare a football. Quando l'ho conosciuto era quello il suo sogno. Giocava bene. Era un linebacker, ma già iniziava a interessarsi allo spettacolo. Io pensavo che se fosse entrato nel mondo dello spettacolo sarebbe diventato una specie di Frank Sinatra. Avrebbe fatto musica, avrebbe recitato e avrebbe avuto molto successo. Nel corso degli anni mi resi conto che era più probabile che se avesse continuato a recitare forse non avremmo mai avuto una sicurezza finanziaria. Allora lui mi fece una promessa. Se recitando non avesse guadagnato abbastanza, a 30 anni avrebbe smesso e avrebbe trovato un lavoro vero. Appassionato di sport, d'arte drammatica e anche di musica, John si diverte a suonare la batteria in un complesso, i Ravens, band che si diletta principalmente in cover di pezzi famosi. Riescono persino a incidere un disco, finanziato dal padre di uno dei membri del gruppo. Ne stampano un centinaio di copie e ne inviano alcune alle stazioni radiofoniche locali che si guardano bene dal mandare in onda i loro pezzi. Ma i Ravens sono ragazzi spiritosi e finiscono per usare le copie invendute dei loro vinili come frisbee nei pomeriggi domenicali, scherzando sulle speranze deluse. Di certo John non immagina che un giorno un disco con la sua faccia in copertina scalerà le vette delle classifiche di vendita di tutto il mondo. Finito il liceo, John rinuncia alla borsa di studio per il football offertagli dal college del Western Illinois e si iscrive invece all'università di Whitewater nel Wisconsin. A Whitewater non si curano troppo degli sport, in compenso hanno un buon corso d'arte drammatica. La strada di John sembra ormai tracciata. Non più il re del ballo studentesco ed eroe della squadra di football, ma artista, capellone per scelta e autostoppista per necessità. Ogni weekend, infatti, John torna a Wheaton da Judy e dalla famiglia. Il padre cerca ancora di convincerlo a subentrargli nella gestione del ristorante e ogni volta John si rifiuta categoricamente, convinto di avere ormai trovato la sua strada. Sarà un attore, costi quel che costi. In effetti recitare gli riesce davvero bene, così bene che all'inizio degli anni 70, durante un semplice provino, sconvolge letteralmente i membri di Second City, una celeberrima compagnia di cabaret di Chicago. John conquista i loro cuori esibendosi nella perfetta imitazione del cantante Joe Cocker e in quella di Marlon Brando nei panni di Don Vito Corleone ne Il Padrino. Godfather. Cosa ne dite di un po' di Padrino? Ok. Vi faccio vedere come ha fatto Marlon Brando nel suo provino per Il Padrino. I'm a thank you for inviting me to the meeting. Thank you for my booking. Un'imitazione strepitosa, capace di conquistare una schiera di cabarettisti consumati. Ad appena 20 anni, John è pronto per cambiare le regole nel mondo dello spettacolo. Comincia così per Belushi un nuovo percorso, quello tanto sognato. Infiamma i piccoli, malandati palcoscenici di Chicago fino alla fine del 1972, quando viene notato da un produttore che sta organizzando uno spettacolo di cabaret a New York. Si tratta di una produzione off-Broadway, controcorrente, che metterà in scena un umorismo amaro e perverso, capace di ridere senza peli sulla lingua argomenti delicati come la malattia, la religione, il sesso, la morte. Il talento di John è innegabile, così come lo è il potenziale di guai che porta con sé. I ritmi della vita sul palcoscenico e la sua indole incontenibile si sposano alla perfezione con uno stile di vita sregolato e con l'uso massiccio di droghe. Ma i produttori, francamente, se ne infischiano dei vizi di John finché continua a far faville sul palco. Il nuovo spettacolo newyorkese intitolato Lemmings debutta il 25 febbraio 1973. Nel momento in cui Belushi fa l'imitazione di Joe Cocker, per poco non crolla l'intero teatro. Il successo di Lemmings è incredibile. Per mesi e mesi continua a registrare il tutto esaurito. John è la star indiscussa e la gente va a teatro quasi solo per assistere alle sue performance. Ma la vita a New York è dura, il lavoro esaltante, ma difficile dal punto di vista sia fisico che psicologico. Per fortuna c'è Judy a dargli il conforto, ma non basta. L'effimera consolazione della droga è sempre in agguato e John è fragile, molto più fragile di come si mostra al mondo dall'alto del palcoscenico. Decide di prendersi una specie di vacanza dalla pressione dell'ambiente newyorkese. Nell'estate del 1974 va a Toronto per seguire la troupe canadese di Second City, la scuola di cabaret di Chicago con cui aveva iniziato a esibirsi giusto un paio di anni prima. Ed è proprio in Canada che John fa un incontro destinato a cambiargli la vita per sempre. Ci siamo piaciuti subito, a prima vista, ascoltando un disco di blues nel mio locale, il 505 Club. Lui mi chiese cosa fosse quel disco e io gli risposi che erano i Dow Child Blues, un gruppo canadese molto bravi. Lui mi disse: blues? Wow, mi piace. E io: John, sei di Chicago, non puoi non conoscere il blues. È la culla del blues elettrico, Muddy Waters, Willie Dixon. Ma a lui piaceva l'heavy metal. Allora gli ho fatto una proposta: fammi conoscere l'heavy metal e io ti insegno il blues. La voce che avete appena sentito è quella del giovane uomo che sta per diventare il migliore amico, la spalla e il compagno di giochi prediletto da John Belushi. Tra gli attori che animano la versione canadese del cabaret di Second City, si distingue un po' per lo spiccato talento, un po' per l'altezza e la bella presenza. Messi l'uno accanto all'altro, lui e John sembrano due creature provenienti da due pianeti diversi, uno basso e rotondetto, l'altro magro e allampanato. Quel che John trasmette in frenesia ed esuberanza, l'altro lo compensa con apparente pacatezza e surreale distacco. Insieme sono già una coppia perfetta. John Belushi ha trovato il suo compare ideale. Stiamo parlando ovviamente di Dan Aykroyd. Dan Aykroyd. Non solo l'aspetto, ma anche il percorso dei due ragazzi fino a quel momento non potrebbe essere più diverso di così. Quello di Dan, infatti, non ha nulla a che vedere con campi da football, balli studenteschi, ma passa addirittura per il seminario. Sì, ho fatto 4 anni in seminario. Eravamo tutti ragazzi e comunque sono stato educato in maniera eccellente. Ma poi dopo 4 anni hanno scritto una lettera ai miei genitori che diceva che forse io non ero proprio adatto per la via del sacerdozio. Praticamente mi hanno chiesto di andarmene e io sono stato ben contento di farlo. Nato e cresciuto ad Ottawa, la capitale della regione dell'Ontario, in Canada, Dan è un ragazzino piuttosto timido, i cui capelli rossi e la carnagione chiarissima non fanno che dargli un'aria ancora più fragile. Eppure Dan non lo è affatto, anzi, quando ha modo di salire sul palcoscenico, nelle recite scolastiche, sembra che si trasformi in un'altra persona. È energico, spigliato, addirittura vulcanico. Eppure il suo lato timido gli impedisce di essere già sicuro riguardo a un possibile futuro sulle scene. Non ero ancora sicuro di voler far l'attore. Certo, avevo un compagno che mi faceva da spalla comica. Insieme recitavamo nelle commedie scolastiche. Una spalla comica è tutto quello che gli serve e l'incontro con John sembra davvero una benedizione da questo punto di vista. I due fanno insieme alcune improvvisazioni e per entrambi la cosa funziona magicamente. Dan non sente il bisogno di mettersi sulla difensiva di fronte a quello sconosciuto, anzi è immediatamente portato ad aprirsi con lui, a raccontargli i particolari della sua vita privata. Finite le prove con quelli di Second City, i due fanno insieme il giro dei locali notturni della città e approdano al 505 Club, spartano saloon diretto e frequentato da Aykroyd. Qui i due amici si fermano a chiacchierare per ore. Scoprono di condividere, oltre all'innato feeling che scaturisce dalle rispettive caratteristiche complementari, una grande e identica passione, quella per la musica. Certo, non si trovano immediatamente d'accordo su quali generi sia meglio ascoltare, ma non importa. Quello che conta è l'amore per l'energia sprigionata dai suoni di una band e la meravigliosa atmosfera che quei suoni sanno ricreare. L'amicizia tra Aykroyd e Belushi si consolida sempre di più. Dan sale spesso sulla sua Harley Davidson e macina i 760 chilometri che separano Toronto, dove lavora in teatro, da New York, la grande mela dove vive e recita il suo amico John. Quando all'inizio del 1975 John viene coinvolto nel progetto di un nuovo programma televisivo della NBC che rimpiazzi le repliche di un vecchio show di Johnny Carson, Belushi non ci pensa un attimo e coinvolge immediatamente Aykroyd, che si vede catapultato dai teatri cittadini alla ribalta di uno dei principali network statunitensi. Non sapevo davvero che sarei finito qui. Sono andato all'università e ho iniziato a studiare criminologia e sociologia. Ero proiettato verso una carriera in ambito governativo o nelle forze dell'ordine. Altro che carriera governativa. Alle 23:30 di sabato 11 ottobre 1975, dallo studio 8 del quartier generale della NBC, al numero 30 di Rockefeller Plaza, la telecamera inquadra i volti di coloro che stanno per scrivere un pezzo memorabile di storia della televisione e della comicità. È la prima puntata del Saturday Night Live. Tra quei volti ci sono quelli di John Belushi e Dan Aykroyd. Amici, compagni di lavoro, fratelli nella vita, e di lì a poco anche nel blues. Destini incrociati. Destini incrociati assiste alla nascita del Saturday Night Live, uno dei programmi comici più longevi e acclamati del pianeta. John Belushi e Dan Aykroyd fanno parte del cast di attori che anima gli sketch più divertenti, surreali e corrosivi mai apparsi fino a quel momento sul piccolo schermo. Dalla sinergia di questi due giovani e talentuosi ragazzi, a breve nascerà una delle performance più celebri e amate di tutti i tempi, un numero che travalica l'idea di comicità mescolandosi con la musica e diventando immediatamente un fenomeno di culto. Dan Aykroyd ricorda con precisione il momento esatto in cui tutto è nato, l'amicizia con Belushi e con essa il primo vagito dei futuri Blues Brothers. Ci siamo innamorati la prima volta che ci siamo visti. È stato a Toronto ed è stato proprio quella sera che è nata l'idea dei Blues Brothers. Per Aykroyd ormai Toronto e il Canada sono lontani. Adesso vive e lavora a New York, dove condivide la scena con l'amico John Belushi. Il loro sodalizio è decisamente vincente, dentro e fuori dai personaggi e dai palcoscenici, cementato da una passione comune, la musica. Può darsi che io e John non fossimo i migliori cantanti né i migliori ballerini su piazza, però eravamo innamorati della musica. perché non riversare un po' di questo amore e di questa energia in una performance dal vivo? Ce ne parla Paul Schaeffer, storico membro della band del Saturday Night Live. Questa coppia legò da subito e divennero immediatamente un duo fin dai primi tempi del Saturday Night Live. Ricordo che iniziarono ad esibirsi nel numero dei Blues Brothers per scaldare il pubblico prima della messa in onda vera e propria, quella delle 23:30. Aykroyd suona l'armonica bocca, mentre Belushi rispolvera le vecchie conoscenze musicali risalenti al liceo e si diletta a suo modo nel canto. Il pubblico, seduto nello studio televisivo in attesa che inizi la trasmissione, non è certo preparato all'energia incontenibile sprigionata da quelle inaspettate performance dal vivo, corroborate dall'aiuto e dalla bravura di una vera e propria band di strumentisti. Quel numero, ideato per scaldare il pubblico del Saturday Night Live, ha un tale successo che alla fine i produttori trovano il modo di inserirlo all'interno dello show. È ancora Paul Schaeffer a intervenire sull'argomento. Al Saturday Night Live c'era una gag ricorrente in cui i membri del cast si vestivano con grossi costumi da ape. John detestava quel costume, non era un segreto per nessuno. La sola volta in cui gli piacque è quando mise il costume da ape, inforcò un paio di occhiali da sole e cantò I'm a King Bee Baby. I'm a King Bee Baby. I'm a King Bee. Una performance strepitosa, un numero destinato a consolidarsi nel corso degli anni. Lentamente, Dan e John diventeranno a tutti gli effetti i Blues Brothers. La permanenza sul piccolo schermo dona popolarità a entrambi e iniziano a fioccare le proposte. Dan Aykroyd, più pacato e riflessivo, entra ufficialmente nel team di autori che scrivono i dialoghi e gli sketch del Saturday Night Live, inaugurando una passione, quella per l'aspetto più puramente autoriale, che si porterà dietro per tutta la carriera. John Belushi, invece, sceglie di restare perennemente sotto i riflettori. Il 29enne regista John Landis, ancora alle prime armi, ma già pieno di intuito e verve creativa, non può fare a meno di notare le sue straordinarie doti. Il viso di Belushi è come un cartone animato e le sue sopracciglia sono in grado di parlare, di dire qualsiasi cosa. Quella faccia e quella mimica così buffa e vagamente animalesca sono quello che ci vuole per il suo prossimo lungometraggio. Dopotutto, anche il titolo è animalesco. Il film si chiamerà Animal House. La storia dell'associazione studentesca Delta, l'Animal House, che dichiara guerra al buon gusto, alle buone maniere e ai bei voti, conquista le platee di tutta l'America, diventando rapidamente uno dei maggiori successi di tutti i tempi. La Universal Pictures ha speso meno di 3 milioni di dollari e ne incassa 140. E il merito, diciamolo pure, è quasi tutto di John Belushi e della sua strepitosa interpretazione del giovane John Blutarski, per gli amici Bluto. Bluto! Tu già conosci tutti qui, no? Greg, scusa, non potresti? No, niente paura, basta che tieni mani e piedi lontani dalla sua bocca. Ma non hai il minimo rispetto per te stesso. È di una volgarità rivoltante. Quest'uomo è un più RCO porco. Il regista John Landis ci aveva visto giusto. John Belushi è il valore aggiunto che rende il suo film memorabile, una vera e propria pietra miliare del cinema cosiddetto demenziale. L'umorismo scorretto e l'anarchia di fondo che permeano l'intera pellicola sono perfettamente incarnate da Bluto, dai suoi grugniti e dal suo esagerato, a tratti disgustoso rapporto col cibo. Il suo amico Dan Aykroyd non aveva dubbi. Nonostante quella in Animal House fosse la sua prima esperienza su un set cinematografico, John non avrebbe di certo fatto brutta figura. Certo, è un asso quando si tratta di fare casino e di mettersi nei guai. In fondo, è proprio questa la parte che deve recitare, quella di un giovanotto in sovrappeso, casinista e decisamente sopra le righe. Il personaggio di Bluto, in effetti, sembra scritto appositamente per lui. Fare la commedia è molto, molto più difficile rispetto ai ruoli drammatici. Chi meglio di Dan Aykroyd può conoscere le difficoltà che si incontrano nell'interpretare e nello scrivere una commedia? Ne è al corrente persino un regista serio come Steven Spielberg, che vuole sia Aykroyd che Belushi nel cast del suo 1941 Allarme a Hollywood. Militare, pilotavi tu quell'aereo? Sì, signore. Capitano Toro Bill Kelso dell'esercito degli Stati Uniti. A rapporto è fiero, sono il primo americano che ha battuto un aereo giapponese sugli Stati Uniti continentali. Spielberg pensa a Belushi per il ruolo di Wild Bill Kelso, un buffo e maldestro pilota di bombardiere P-40 determinato ad abbattere il primo aeroplano giapponese che sorvoli il territorio americano. Una specie di Bluto con gli occhiali da aviatore, insomma. Anche Aykroyd ha una parte nel film e Frank Tree, un ultrapatriottico sergente d'artiglieria che pianta una mitragliatrice nel giardino della sua casa al mare. Nonostante le ottime interpretazioni dei due amici, il film di Spielberg si rivela un fiasco al botteghino. Ma poco importa. Ormai le loro carriere sono lanciate e non c'è quasi più niente che sia in grado di fermarle. Lo strepitoso successo di Animal House ha garantito a Belushi la fiducia pressoché incondizionata dei produttori televisivi, cinematografici e discografici. E questo nonostante il suo atteggiamento fuori dal set sia tutt'altro che conciliante. Belushi fa un massiccio uso di droghe, tutti lo sanno. E tutti sanno che fa inevitabilmente parte dello stile di vita sregolato di chi vive e si muove nel mondo dello show business. Le droghe lo tengono sveglio durante le estenuanti sessioni di prove del Saturday Night Live. Spesso gli danno la carica per esibirsi nelle sue interpretazioni più esilaranti. Fanno parte del personaggio, ma anche della persona. In fondo le due cose, la persona e il personaggio, in John Belushi, tendono a combaciare. Ed è proprio grazie al genio e alla sregolatezza di Belushi, parzialmente mitigati dalla pacatezza e dal lavoro costante di Dan Aykroyd, che nasce per i due amici l'opportunità di pubblicare un disco che raccolga i successi di tante performance live, quelle in cui si sono esibiti nel loro sport preferito, il blues. La mia vita non è davvero cambiata finché non abbiamo fatto il disco dei Blues Brothers. Lì davvero le cose hanno cominciato a prendere una piega molto diversa. Nel dicembre del 1978, la Atlantic Records pubblica Briefcase Full of Blues, un album di 10 canzoni registrate dal vivo durante le performance dei Blues Brothers. Dopo appena 5 giorni, le prime 50.000 copie vanno esaurite. La Atlantic riceve talmente tanti ordini che si vede costretta ad affittare altri impianti di produzione per far fronte alle richieste. Briefcase Full of Blues si rivela il disco dal successo più rapido nella storia dell'Atlantic e in poche settimane Belushi e Aykroyd conquistano il disco di platino, superando il milione di copie vendute. Sul finire degli anni 70, i Blues Brothers sono pronti a dare il benvenuto al nuovo decennio e lo fanno affacciandosi sul grande schermo. Destini incrociati. Matt, di che diavolo state parlando? Non t'arrabbiare, tesoro. Non cominciare col tesoro che t'ho capito. Io ti dico che in giro per il mondo non ci vai più e non suonerai più in quei localacci da quattro soldi. Tu vivi con me adesso. E non ricomincerai a fare il vagabondo con quei pezzenti dei tuoi amici bianchi. Ma pupa, questi sono Jack ed Elwood, i Blues Brothers. I Blues Brothers? Che stronzo. Ma se ti devono ancora un mucchio di soldi? Signora, la conforterebbe in qualche modo sapere che quello che stiamo chiedendo a Matt di fare è una cosa sacra? Vede, siamo in missione per conto di Dio. Due uomini in missione per conto di Dio. Due fratelli che riportano il blues al grande successo che merita. Due grandi amici che fanno quello che li diverte di più e facendolo scatenano un impatto culturale assolutamente stupefacente. Sono John Belushi e Dan Aykroyd, o se preferite sono Jake ed Elwood Blues. Portano occhiali da sole Ray-Ban modello Wayfarer, cravatte lunghe e strette, camicie rigorosamente bianche, cappello e vestito rigorosamente neri. Sono gli inconfondibili Blues Brothers. Un orologio digitale Timex rotto, un profilattico non usato, uno usato, una giacca di un abito nero, un paio di pantaloni di un abito nero, un cappello nero, un paio di occhiali neri, $23.12. Firma qui. All'uscita di prigione, Elwood aspetta il fratello Jake per condurlo attraverso 130 minuti di scorribande per le strade di Chicago, nel cocciuto tentativo di ricostituire la blues band che tanto aveva saputo infiammare i loro cuori. Jake ed Elwood somigliano incredibilmente a Belushi e Aykroyd, così diversi nell'aspetto e nei modi, eppure così complementari. Tutto era bianco o nero, yin o yang, negativo o positivo. È presente, no? La dinamica bipolare della vita. Due poli opposti, uno positivo e uno negativo. Uno estroverso e l'altro introverso. Uno sregolato e l'altro misurato. Uno casinista e l'altro minuzioso. È questa la forza vincente su cui si basa il rapporto di lavoro ed amicizia tra Dan Aykroyd e John Belushi. E tra amicizia e lavoro, così come tra persone e personaggi, i confini sono molto sottili. Lavorare insieme significa vivere e respirare insieme, ogni giorno. Ma per Belushi, persino respirare non è una faccenda semplice. Lei ha una ragione per alzarsi tutte le mattine. Lei fa questo show. E invece lei, signor Belushi, lei non ha una ragione per alzarsi tutte le mattine? A volte no. A volte non so proprio quel che farò. Certi talenti rientrano nella categoria che sta sospesa tra la benedizione e la maledizione. E maggiore è il talento, più inesorabile è la maledizione. E purtroppo di talento John Belushi ne ha da vendere. Every night I go to sleep, the blues fall down like rain. Fall down like rain. È una vita vissuta al massimo, quella di John Belushi. Sesso, droga e rock and roll, verrebbe da dire. Di certo la droga e il rock and roll non sono mai mancati. Per quanto riguarda il sesso, John è fedelissimo alla fidanzatina del liceo Judy, ormai diventata sua moglie. Lei e Dan Aykroyd sono i suoi punti di riferimento, i suoi fari nel buio, le sue stelle polari. Lo conoscono come le proprie tasche, eppure non riescono a cambiarlo di una virgola. John era molto più disorganizzato di Dan ed era molto più impulsivo di Dan. L'impulsività spesso lo frega. Getta via i soldi come fossero caramelle. Compra montagne di droga e la regala ad amici e sconosciuti che accorrono ai party in suo onore, a quelle feste a base di perdizione che sempre più spesso si tengono in sua presenza. Da Animal House in poi, ovvero dalla prima volta in cui ha messo piede su un set, John è entrato a tutti gli effetti nella cerchia dei potenti di Hollywood. Lascia spesso New York per alloggiare nei lussuosi hotel di Los Angeles, frequenta i produttori e la gente che conta. Lontano dai veri amici e dagli affetti, la solitudine di Belushi non può che ingigantirsi. Le dà fastidio essere un idolo? Essere un idolo? Sì, mi dà fastidio. Quindi le dà fastidio che tanta gente la riconosca, la fermi per strada? Certo, mi fa sentire un freak. Famoso e riconosciuto da tutti, eppure irrimediabilmente solo e abbandonato a se stesso. La vita a Los Angeles è nociva per Belushi. Poco importa se è ancora freschissimo il ricordo del successo dei Blues Brothers. Quella sembra addirittura un'altra vita, un'altra persona, un altro personaggio. Io non credo che sia possibile raggiungere le vette raggiunte da lui nella sua vita, seppure così breve, senza avere quel tipo di motivazione che lo spingeva. Paul Schaeffer ricorda la motivazione incrollabile che lo spingeva a recitare, a dare il massimo nel suo lavoro. Lo stesso livello, lo stesso tenore con cui Belushi affrontava qualsiasi evento della sua vita. Troppo talento, troppo cibo, troppo amore, troppa droga, troppe sigarette, troppa amicizia, troppo alcol, troppa fragilità, troppi tranquillanti, troppo tutto. Quel tragico mattino del 5 marzo 1982, John Belushi è morto per un'overdose di tutte queste cose messe insieme. E non c'era davvero nulla che i suoi cari potessero fare per fermarlo. Dan Aykroyd è sconvolto dalla notizia. Quel giorno si trova a casa sua, a New York, e sta lavorando alla sceneggiatura di un nuovo film. È una storia che incrocia la fantascienza, l'horror e la commedia, il reale e il paranormale. Dan tratteggia i personaggi pensando come se fosse la cosa più naturale del mondo, che a interpretarli saranno lui e il suo più caro amico, John Belushi. Sarà una storia di amicizia e insieme una storia di fantasmi, anzi, di acchiappa fantasmi. Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Acchiappa fantasmi! 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale. Siamo pronti a credere in voi! Ghostbusters esce nelle sale nel giugno del 1984 e ha subito un successo strepitoso. Ancora in molti tuttora si chiedono se lo stralunato professor Venkman, magistralmente interpretato da Bill Murray, sarebbe stato uguale se a vestire i suoi panni fosse stato John Belushi. È per lui, infatti, che Dan Aykroyd aveva scritto quella parte. Ma si sa, a volte le cose non vanno come ce le aspetteremmo. Deve essere questo quello che pensa Dan Aykroyd quando in sella alla sua Harley Davidson apre il corteo che saluta per l'ultima volta l'amico John. E dall'alto, lentamente, inizia a nevicare. Credo che tra 10 anni starò ancora lavorando con questo tizio qui. Certo, se saremo ancora vivi. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.